Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. I wanna now, I wanna know, I got to rock, I need to roll. If you can't hang with the speed I go, I'm gonna roll tonight. '81, Gilles Villeneuve. Dopo 16 anni, Schumacher a riportare la Ferrari sul gradino più alto a Monaco. Ultima vittoria Ferrari qui, 2001 con Schumacher. 16 anni dopo, Sebastian Vettel riporta sul gradino più alto del Gran Premio di Monaco. La rossa esplode il boato con Kimi Räikkönen che completa la doppietta che non arrivava dalla Germania 2010 con Alonso e con Massa. Straordinario weekend della Ferrari che torna a essere regina sulle strade del Principato con Sebastian Vettel che vola via nel mondiale. 25 punti di vantaggio su Lewis Hamilton che ha chiuso in settima posizione. È festa grande adesso, è festa grande per gli uomini in rosso, è festa grande per Sebastian Vettel che conquista per la seconda volta il Gran Premio di Monaco e può saltare fuori dalla sua macchina e può urlare la sua gioia. Yes! P1, you deserve this one. You deserve this one. Master Vettel in Monaco. Woohoo! Yes, yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Grazie ragazzi, grande lavoro. La macchina è stato molto buono. Grande piacere oggi. Bravo Seb, spinto al massimo, così si fa. Avanti. Avanti tutta, che vale anche per noi in questa domenica pomeriggio straordinaria che stiamo vivendo, sommersi dalle emozioni. Questo è stato il riassunto di come è finito il Gran Premio di Monte Carlo, ne parliamo subito. Poi c'è il Giro d'Italia, anche il Gran Premio Rosa, tutti lì ed è questione davvero di secondi. C'è Tom Dumoulin che sta facendo una crono strepitosa, c'è Nibali che si sta difendendo con i denti, c'è Quintana che sta facendo fatica. Allora vi do i passaggi dopo 8,8 km, soltanto dei leader. Dumoulin è passato in 10,01, Nibali in 10,18, Pinot in 10,27, Quintana in 10,32. Vi ricordo che Dumoulin deve recuperare 53 secondi su Quintana, ne avrebbe ripresi 31, 14 su Nibali e ne ha presi 17, 10 su Pinot, ne ha presi 26. Dumoulin che sta ancora però macinando, 8.00.24.00.24. Se volete vi prenotate per intervenire in diretta fino alle 19, vi racconteremo in diretta con Pier Augusto Staggi come finisce il giro, vi racconteremo l'addio di Totti. Abbiamo alle 17.30 un grande ospite, Walter Veltroni, sindaco di Roma per 7 anni, amico personale di Totti. Proveremo a raccontarvelo in una maniera un po' staccata rispetto al campo. Arriverà anche Pierluigi Pardo. Intanto saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore. Ciao direttore. Ciao. Una domenica da diventare ciechi. Sì, posso dire una cosa per rendere onore? Intanto Nibali 30 secondi di distacco da Dumoulin, Quintana 37, Pinot 50. Prego Carlo. No, era tanti anni, magari il direttore si ricorda da quando il Giro d'Italia non veniva deciso l'ultimo giorno dalla cronometro finale. Io mi ricordo. Mi ricordo Fignon, mi ricordo Moser. Sì. Ma non, bisogna andare molto indietro nella memoria. E poi volevo. C'era una passerella finale, invece questa esatto, è una tappa vera. Tra l'altro, una tappa esatto. che parte da Monza, quindi che parte proprio dal circuito di Monza, quindi un collegamento con la Formula 1. Collegamento con la Formula 1, e proprio con la Formula 1, io volevo rendere pubblicamente onore a Leo Turrini che aveva previsto tutto venerdì. Dicendo questo, erano 16 anni che la Ferrari non vinceva a Monte Carlo. Quando vinse Schumacher, vinse a Monte Carlo dopo 16 anni che la Ferrari non vinceva a Monte Carlo. È tutta una questione di statistica. Di statistica. 16 vittorie, guarda che è curioso, eh? direttore. Sì, diciamo che al nostro amico Leo piace giocare facile. Piace giocare facile. Dopo le prove di giovedì si era intuito che qualcosa stesse succedendo a Monte Carlo e che la Ferrari avesse ribaltato un po' la situazione su una pista particolare. Piace vincere facile, diciamo così. Perché l'avesse detto mercoledì avremmo dato ancora più merito. Però è vero, ha beccato, la statistica è quella, e la statistica ci racconta che 16 anni dopo un altro tedesco fa suonare l'inno di Mameli a Monte Carlo, perché Vettel ha ricordato molto Schumacher. Quella gara di Schumacher era stata noiosa, perché Schumacher non aveva combattuto praticamente contro nessuno, se non contro la noia. Aveva raccontato di aver capito di vincere già al mattino, quando sua moglie gli regalò un quadrifoglio che aveva trovato in giardino. Però questo faceva parte del personaggio di Schumacher, che ogni tanto gli regalava qualche chicca, così, qualche curiosità così. Oggi Vettel ha dovuto combattere contro il suo compagno di squadra, qualcosa che non ci secondo me ha dovuto combattere contro Verlaine. Provo le tue doti di divinatore, chi vince il giro? Dumoulin ne ha tanto. Dumoulin ha un motorino sotto, sì. Posso dire che lo meriterebbe, e poi devo dire che è stato grande a cronometro, è stato grande anche in montagna a non perdere quando tutto giocava contro di lui, quindi insomma se lo merita sicuramente. Guarda, in prospettiva è anche un grande corridore. Gli do la classifica virtuale: quando mancano 6-7 km per Dumoulin, è ancora in maglia rosa Quintana, ma ha un vantaggio oramai di 9 secondi. Che è difficile tenersi in questa parte finale di questa crono, che chiude un giro entusiasmante. In questo momento ci sono 5 corridori in un minuto, come non siamo abituati a vedere da tempo. Torniamo però un attimo sulla Formula 1 con Umberto Zappelloni, detto che restiamo qui a raccontarvelo, è il finale di questo Giro d'Italia. Sì, è vero, Vettel ha vinto al box, strategia perfetta, ha scavalcato Kimi Raikkonen, poi diremo due cosine anche su Kimi Raikkonen. Ha dovuto vedersela più che altro con la sfortuna che gli ha messo in pista la safety car a una quindicina giri dalla fine, quando la gara era chiusa, morta, sepolta. Abbiamo un po' tremato, perché poi è vero che si può vincere anche la mattina presto il Gran Premio di Monte Carlo, la verità è che tra quei muri lì basta davvero poco per saltare in aria. Basta vedere le immagini rallentate di certi particolari, quanto vicino a guardrail passato. Sì. Tutte le volte farlo per più di 70 giri di fila a quei ritmi, quasi da qualifica, vuol dire avere sempre una precisione straordinaria. E Vettel l'ha avuta, come l'hanno avuta tutti, perché oggi Verlaine è andato a sbattere non per colpa sua, perché Button l'ha buttato fuori, gli altri, anche Stroll oggi è riuscito a non sbattere, quindi tutti comunque bravi. Devo dire che lui aveva dietro Raikkonen, quindi alla ripartenza più che altro rischiava Raikkonen forse il secondo posto, lui era abbastanza difeso, e poi si vedeva che la Ferrari oggi ne aveva di più rispetto a Red Bull e sicuramente anche alla Mercedes. Sì, credo che con oggi siano definitivamente ribaltati i rapporti di forza in questo mondiale, anche dal punto di vista psicologico. Vedere Hamilton lottare per ridurre il danno dei problemi delle qualifiche è stato significativo. Sì, da oggi dobbiamo dire che la favorita per il mondiale è la Ferrari, anche se la prossima gara in Canada sarà molto dura per i motori e per i freni, e quindi potrebbe tornare la Mercedes a essere pericolosa. Però credo che la Ferrari abbia dimostrato in 6 gare, su ogni tipo di circuito, di essere competitiva. Avrebbe potuto vincere Vettel tutte e 6 le gare, ne ha vinte 3 e 3 volte è arrivato secondo. Direi che un ruolino di marcia così non era neanche nei sogni all'inizio del mondiale. No, certo, possiamo anche aggiungere, ma questa è una banalità, che il meraviglioso circuito di Monte Carlo, che è un pezzo di storia dello sport, è come la Parigi-Roubaix per me, è anacronistico finché si vuole, ma meraviglioso. Nulla dice da un punto di vista tecnico, direttore. Assolutamente, però devo dirti che in qualifica una macchina come la Ferrari, quindi col passo corto e con una risposta di motore notevole, è riuscita a fare la differenza. Però è un circuito dove si vede il pilota e la qualità del pilota. Si è vista con Raikkonen, si è vista con Vettel, non si è vista con Hamilton, che è sparito, ha fatto molta confusione con una macchina che pure Bottas aveva portato a 2 millesimi dalla prima fila, quindi è proprio andato nel cuore Hamilton, come ogni tanto gli capita. Intanto c'è un momento fortemente simbolico: Quintana lascia Sesto San Giovanni ed entra in Milano esattamente nel momento in cui il distacco da Dumoulin rende l'olandese maglia rosa virtuale. Siamo davvero alle ultime giorno esoterico quasi. Sì, entra in Milano già da secondo in classifica Quintana in questo momento. Abbiamo il traffico, un minuto di traffico, io chiedo un minuto di pazienza a Umberto Zappelloni, poi finiamo il doppio ragionamento, il doppio binario in questa domenica meravigliosa, che vi ricordo poi alle 18 farà vivere forse l'emozione per chi ama il calcio più grande, quella dell'addio di Francesco Totti. Anzi, mi piace anche sapere cosa ne pensate da casa. 800 24 00 24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. C'è la nostra Valeria Bernardi che ha le lacrime agli occhi oggi. Traffico, beh, giusto. Convocati. Tutti convocati. Tanto Dumoulin è una sentenza, il vantaggio su Quintana è oltre il minuto 40 e passa secondi su Vincenzo Nibali, gli manca davvero poco per arrivare al traguardo del Giro d'Italia. Giro d'Italia che a meno di clamorose sorprese sarà suo, ma proprio in volata io faccio mio. E gira Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Questo SMS che è arrivato al 349-238-6666. Per favore organizzate sempre un'ultima tappa come questa. Crono o Dolomiti e chi se ne frega della passerella? Direttore. Assolutamente, ma assolutamente, perché tenere comunque la suspense alta fino agli ultimi chilometri è qualcosa di unico, se no tanto vale chiuderlo il giorno prima il giro. Credo che questa di questa notte su questo possiamo discutere, anche il Tour de France arriva a Parigi, sarebbe sui Campi Elisi, sarebbe sui Campi Elisi con i calici di vino di champagne in mano, quindi dipende dai gusti. Comunque per fare la festa, poi in Piazza dell'Uomo ci sarà festa fino a sera, insomma io credo che comunque è bello arrivare con un giro combattuto, con una gara combattuta fino in fondo, insomma, quindi è stata una edizione interessante, divertente. Purtroppo abbiamo, l'Italia ha vinto una tappa sola con Nibali, però l'entusiasmo che si è respirato durante tutte le tre settimane del giro attorno alla carovana è stato ancora una volta straordinario. Sì, è stato un giro speciale. Prima di salutarti volevo farti sentire, sta parlando Vincenzo Montella, il Milan in vacanza, perso 2-1 a Cagliari. Sentiamo le prime battute a Premium Sport. Siamo partiti male, Cagliari aveva più ritmo, dopo il loro vantaggio qualcosa in più abbiamo fatto. Sicuramente il secondo tempo è stato giocato con più inerzia, con più voglia di ribaltare la partita, e ci siamo riusciti anche con merito. E poi l'episodio, poi la partita di fine stagione, l'episodio della finale ha condizionato gli ultimi 20 minuti. È stata una partita non bella da vedere, non mi sono divertito e mi dispiace tantissimo aver perso. E quindi l'episodio non l'ho rivisto, forse sì, insomma. Sì, però... sì, era fuori gioco, Vincenzo, l'abbiamo già rivisto noi. Vabbè, allora va bene così. Insomma, il fuorigioco di fine stagione possiamo risparmiarcelo. Il fuorigioco è sul 2-1. Il Cagliari ha battuto il Milan 2-1. Joao Pedro, la Padula, Pisacane, Bacca ha sbagliato un rigore, o meglio l'ha parato Luca Crosta, classe 98, esordiente dal primo minuto. Però io a Umberto Zappelloni volevo chiedere in chiusura, e poi lo salutiamo, cosa ne pensa della vicenda Donnarumma. Io mi schiero assolutamente con il Milan, che non ne può più di essere portato a spasso da un procuratore e da un ragazzino di 18 anni. Direttore. Assolutamente è stata presa una scelta dura, ma una scelta giusta, perché forse è l'unico modo per cercare di contrastare lo strapotere di Raiola, che sta giocando con questo ragazzo appena maggiorenne, sta giocando insomma anche con la passione dei tifosi del Milan. Credo che sia giusta la linea scelta dalla società, vediamo se sarà in grado di tenerla. E poi, se Donnarumma dovesse essere venduto a 60-80 milioni di euro, io credo che il Milan possa avere poi la possibilità di ricostruire, come sta facendo, per una squadra interessante. Però darle vinta così al procuratore sarebbe veramente un grosso errore per il nuovo Milan che sta partendo. Sì, ci sarà modo di consolarsi anche con un altro portiere. Io penso che Donnarumma debba essere il simbolo del Milan, ma se questa cosa tecnicamente non si può fare, perché oggi il destino di Donnarumma non è in mano al Milan, meglio la chiarezza piuttosto che trascinarsi. Sì, poi io non vedo perché un ragazzo di 18 anni non dovrebbe accontentarsi di un contratto ricco e importante, di diventare la bandiera di una squadra e cominciare la carriera giocando, andando a fare esperienze in Europa anche con il Milan. Ma io almeno il per cuore, il momento il cuore dovrebbe portarlo a fare questo. Almeno per il momento, almeno per il momento, almeno per il momento, poi per il momento, per un anno, per due anni, è talmente giovane che insomma essere la bandiera, il simbolo del Milan è qualcosa di importante. Poi avrà tutta la vita agonistica e sportiva crescendo con il Milan per andare a vincere e guadagnare dove vorrà, se ne avrà voglia. e sono frasi ancora più pesanti in una giornata come questa in cui celebriamo l'addio al calcio di Francesco Totti. Sì, la bandiera per antonomasia insieme a Paolo Maldini e pochi altri. Grazie, grazie direttore. Grazie a voi, direttore. Buona giornata. Intanto Tondo Mulen è arrivato, 33-23, vantaggio virtuale superiore al minuto su Quintana e superiore ai 40 secondi su Nibali, ma tra qualche minuto ci colleghiamo con il nostro Pier Augusto Staggi. Saluto Giorgio Teruzzi intanto. Come mi piace questa domenica contaminata tra ciclismo e Formula 1. Teruzzi, ciao. Buongiorno, buongiorno. Guarda, a tutti. Ti giro questo messaggio. È enorme per me oggi sentire Giorgio Terruzzi. Vi giro questo messaggio che è arrivato via WhatsApp 349-238-6666. Da oggi coniremo un nuovo modo di dire. Sei felice come un Raikkonen sul podio di Monte Carlo. Ce l'ha scritto Paolo. Giorgio. Capisco la sua amarezza, però è difficile fare i conti questa giornata perché... hanno fatto una scelta che ha penalizzato chi si è fermato prima, ma tutte le squadre che hanno scelto di fermare i loro piloti prima hanno fermato i piloti della loro squadra davanti, cosa che si fa spesso, sempre, quasi. Se avessero fermato prima Vettel saremmo qui a fare una polemica uguale. Quindi tu non ci vedi un disegno per dare una gerarchia e confermare una gerarchia chiara dentro? No, non lo so, è difficile dirlo, però c'è da dire anche una cosa. Avevi Hamilton... tredicesimo in griglia, un mondiale che pesa moltissimo, Vettel in prima fila, era un'occasione molto importante per vincere un mondiale ed è l'obiettivo di una squadra importante che vuole vincere da tanti anni. Vettel ha 25 punti di vantaggio oggi su Hamilton ed è un colpo, primo. Secondo, il ritmo di gara di Vettel era strepitoso. Con questo capisco, ripeto, perché poi in questa pista qui non si passa, anche se sei più veloce. Verstappen era più veloce di Hamilton, di Bottas, tutta la gara è stato dietro. Però capisco l'amarezza di Raikkonen. C'è anche da dire che se Raikkonen è il secondo pilota di fatto per punteggio, per prestazioni oggi, questo non è per elementi esterni, è dovuto al fatto che il rendimento di Vettel è molto più alto. Grazie, valutandola, cioè insomma. Senti Giorgio, allora che lo ripeto per la milionesima volta e nessuno cambierà mai in tutta la mia vita il mio pensiero, cioè, ci deve essere per vincere un mondiale un primo pilota e un secondo pilota e gli ordini di squadra di scuderia sono sacrosanti. Questa come la vedo io, poi no, certo. È semplicemente generale, il mio pensiero. Questo in generale, io non so, francamente, non so se c'è stata una premeditazione manifesta. Ma anche ci così, fosse stata, così è giusto così, secondo me. No, certo, certo. No, sto dicendo però che è difficile anche valutare le scelte, perché in quel momento lì si è fermato Verstappen, si è fermato Bottas, andavano forte, andavano un po' più forte, il ritmo di Raikkonen stava salendo, quindi, insomma... È difficile capire o comunque dare per ordine di squadra predeterminato quello che è accaduto oggi. Di fatto però il bottino della Ferrari in questa giornata è straordinario ed è molto rilevante pensando a un campionato, perché poi noi a novembre di cosa è successo oggi pomeriggio ce ricorderemo ben poco, sì. Guarderemo chi c'è davanti nel mondiale. Sei convinto che Kimi sia più vicino alla firma del rinnovo? No, penso che questo tema qui sia uno tema che verrà valutato in base a tutta una serie di considerazioni più complesse. Però non poco, credo no, che non ci sia stato molto un baratto, quello che intendi tu. C'è un baratto in un baratto no, però in fondo Kimi oggi alla fine è stato il secondo perfetto di Vettel. Sì, oggi è stato il secondo perfetto di Vettel e serve da qui alla fine della stagione e mandare via un pilota in un'annata così diventa difficile. Sì, bisogna anche che lo faccia però, perché fino adesso è stato quarto di quattro a parte oggi questa gara Raikkonen, cioè bisogna valutare tante cose. Raikkonen ha 38 anni. Bisogna vedere se è lui l'uomo più adatto per fare il compagno del primo pilota Ferrari l'anno prossimo. Non credo che questa giornata sia decisiva su una scelta del genere. Intanto è arrivato Nibali, 34-17, ha incassato 54 secondi da Tom Dumoulin, ha incassato 1 minuto e 27 Pinot. manca soltanto Quintana. Poi il giro avrà espresso il suo verdetto. C'è qualcuno che scrive, avendo visto Rosberg intervistare sul podio, torna e magari l'anno prossimo torna in Ferrari. Dammi una sensazione, Giorgio. Non credo affatto. Impossibile. Non penso proprio. No, non penso proprio. Sarebbe una vaccata di una proporzione tale, dopo che ha detto di no l'altro ieri a un contratto di 52 milioni l'anno. Cioè, non penso proprio. Questo è andato la presa la larga. È una meravigliosa parola alla Terruzzi. La metteremo come titolo. Ma no, non penso, cioè, sarebbe un pazzo scatenato. Ma non sì, credo, Giorgio, ma certamente. Credo. Dai, io poi sono contro i ritorni. Sono contro. Ma poi penso che non ci tenga neppure lui a fare una. Allora, la traduco in italiano. Nessuna radiofonico. Vaccata. Una suggestione. Una cazzata enorme. Una strozzata. Dai, grazie a Giorgio. Dai, Teruzzi. Dai, vale tutto. Grazie ciao, a Giorgio Teruzzi. Ciao. Allora, ciao. Andiamo dal nostro Piero Augusto Staggi. Abbiamo un paio di minuti, ma sono anche quelli che mancano per avere il nome del vincitore del Giro d'Italia. Piero Augusto. Sì, mancano praticamente 1 minuto e 52 secondi. Il countdown è iniziato. Tom Dumoulin è lì che attende di poter esultare, ma la maglia rosa è sua. Ha fatto una ottima cronometro finale, come era logico attendersi dalla fuoriclasse olandese, che oggi rompe un tabù. L'Olanda festeggia la prima vittoria al Giro d'Italia e lui entra a tutti gli effetti nel grande giro dei uomini da grandi giri. Se l'è meritato, no, ragazzo, Pier, se l'è meritato. Assolutamente. È stato l'uomo il protagonista nel bene, nel male, ha fatto discutere, ha fatto arrabbiare anche Quintana e Nibali. Ma non è mai stato anonimo, non è mai stato secondario, è sempre stato l'uomo, il protagonista, il faro di questo Giro d'Italia. A sorpresa, devo dire, perché invece l'uomo che viene assolutamente sconfitto da questo Giro d'Italia è il colombiano Nairo Quintana, che era logico favorito anche per l'altimetria, per il disegno di questo Giro 100, e invece sulle grandi montagne non ha fatto ecco assolutamente sorriso. La ecco non ha fatto assolutamente la differenza, sì, il Tom Dumoulin ha tutti gli effetti, corona il suo sogno, corona il sogno di tanti olandesi, di tanti corridori anche forti, vi ricordo ad esempio... Di una scuola, corridore, di una tradizione. No? Come Erik Breuking, tanto per citare uno che è venuto a correre per tante volte al Giro d'Italia, ha sognato di vincere il Giro d'Italia. 500 metri alla fine per Quintana, intanto la facciamo questa cronaca, ancora 20 secondi di margine. Stiamo a guardare per... Vediamo un attimo il countdown. Chi è che finisce sul podio? Ci sul va podio, Nibali, giusto? Sì, sì, Nibali terzo, perché Thibaut Pinot è stato, in questo caso possiamo dirlo, asfaltato, però una consolazione magra, perché io onestamente sono molto amareggiato, perché secondo me Vincenzo meritava il secondo posto. Ecco qui. Nessuno mette in dubbio, sì, nessuno mette in dubbio che Dumoulin abbia meritato il giro, e sono il primo a riconoscerlo. Carlo lo sa, ho sempre avuto un po' il freno a mano tirato, perché sì, questo olandese mi ha fatto paura. Eccolo fin qua. Dalla prima settimana. Finito. E invece purtroppo arriva sul secondo gradino un corridore che ha dato pochissimo a questo Giro d'Italia, un corridore veramente algido, indecifrabile, tutt'altro che spettacolare. Noi siamo abituati, io in modo particolare, a ben altro, soprattutto degli scalatori, e definire un corridore come Quintana, lo scalatore più forte del mondo, io non ce la farò mai, anzi sono assolutamente, io mi dissocio. Quintana è arrivato a 1.24 da Quintana, che è arrivato a 1.24 da Tom Dumoulin, aveva un vantaggio di 53 secondi, dunque Tom Dumoulin è il vincitore del Giro d'Italia. Piero Augusto Staggi, con te ci ritroviamo, però ci alle 18.45 per tutti i commenti, ti lasciamo per invece per tutto ciò che riguarda i GR a partire dalle 18. Grazie Piero Augusto, a dopo. Noi ci fermiamo, dopo c'è Walter Veltroni, parliamo di Francesco, sì, Totti. State con noi, ragazzi. Tutti convocati. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Tutti convocati. Ti posso chiedere solo una cosa? Solo una cosa? Che sensazione c'hai, visto che domani è la partita in cui, insomma, la gente non dorme, saranno 65.000? Perché io dormo. esterna, parte un invito in area per Fonseca, che fa da torre per Totti. Sinistro in corsa e palla nel sacco. Molto bravo il giovane attaccante romano, schierato al posto di Balbo. Quando entro io la gente si esalta, mi acclama, è normale che essendo romano e romanista ha un altro spirito, un altro voglia di far vedere quello che realmente riesco a fare. Normale che da giocatore il tuo obiettivo è quello di vincere più cose importanti nel calcio, però io ho avuto, diciamo, la fortuna, il piacere, l'amore di giocare con un'unica maglia, di vincere meno rispetto a quanto potevo vincere, però sono contento lo stesso, sono contento lo stesso. Altro avere un po' di, diciamo, rispetto per quello che ho dato a questa società, a questa squadra. Avere a disposizione 4 minuti, 7 minuti, 10 minuti e cambiare le sorti di una partita, sinceramente neanch'io ci avrei mai pensato, però quello che è successo me lo tengo ben stretto, perché sono cose che rimarranno nella storia di Roma. E rimarranno nella storia di Roma. 00-24-00-24, io te lo confesso Carlo, io ho i brividi con quello che abbiamo sentito, con quello che è stato Totti, con questo pomeriggio che vivremo. Saluto anche per Luigi Pardo, ciao Pier. Ciao Pier. Oggi lo lasciamo libero in fretta perché è allo stadio, sì, per certo, andare a celebrare come facciamo tutti lui. Idealmente un grande campione come Francesco Totti. E allo stadio c'è anche una persona che Totti lo conosce bene anche da un lato diverso, e per questo l'abbiamo convocato. Saluto l'onorevole Walter Veltroni. Grazie onorevole, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Sindaco di Roma dal 2001 al 2008, sì. Pier. E molte altre cose. E molte altre cose. Perché ha voluto esserci oggi, onorevole? Ma io non vado allo stadio, all'Olimpico, da molto tempo, però per Francesco sì. Per Francesco sì, perché gli voglio bene, è una persona con la quale ho avuto, diciamo, un rapporto sia quando ero sindaco sia anche adesso, insomma, di amicizia. È una giornata importante per lui e per la città, e quindi mi sembrava giusto esserci. Ma è vero quella cosa che ho letto, che quel libro famoso nel 2004, la raccolta di barzellette su Totti, cambiò la vita dal punto di vista mediatico a Francesco? È stata un'operazione che gli ha fatto bene, al di là che fece bene al comune, la beneficenza. Dal punto di vista dell'immagine, secondo dal me. Dal punto di vista dell'immagine. Ma guardi, sì, sicuramente, nel senso che Francesco si prendeva in giro da solo, che è una cosa che di solito, diciamo, in Italia non fa mai nessuno, perché tutti si considerano molto più di quanto siano. E quindi sicuramente sì, però Francesco è sempre stato uno molto, molto simpatico, molto empatico anche. Sì, ma insomma lui ha fatto questa scelta di stare sempre a Roma, ha fatto la scelta di avere con la città un rapporto particolare da figlio dei quartieri popolari della città. Solo chi conosce Roma sa com'è il carattere di Roma popolare. Francesco è l'espressione di quella generosità, di quel senso dell'umorismo, di quel disincanto che è molto forte in quel tipo di città. E poi, insomma, sì, lui, io poi questo lo posso testimoniare da sindaco, insomma, non c'era cosa da fare per qualcuno che soffrisse in cui Francesco non c'era, e andavamo insieme senza fotografi e telecamere a fare queste cose. Questa forse, Pier, è la parte meno conosciuta di Totti. Sì, è la parte meno conosciuta. Io penso che Veltroni è modesto, fra le varie qualità che ha c'è anche una certa modestia. Io credo che lui, Maurizio Costanzo, una serie di buoni amici di Francesco abbiano contribuito in quegli anni a togliergli ogni forma di timidezza, perché che Totti fosse simpatico è evidente, sempre è stato simpatico, però credo che il discorso delle barzellette è un discorso importante, perché riuscire a capire che quella forma di ironia, di autoironia, poteva diventare utile, poteva diventare importante, poteva diventare un esempio. Ecco, questo credo sia stato un lavoro importante che un gruppo di amici, fra cui credo non sperare nulla, Walter Veltroni, sicuramente ha fatto e che ha contribuito, secondo me, sia alla popolarità di Totti, che io penso che Totti, volevo chiedere questo al sindaco, lo chiamo ancora sindaco, insomma, abbia contribuito al miglioramento della percezione di Roma e dei romani anche in altri pezzi del paese. Insomma, credo che sia uno dei grandi ambassador di questa città, davvero in positivo, al di là degli aspetti tecnici che poi, vabbè, insomma, si commentavano su. Sì, ma soprattutto proprio per il suo rapporto con la città. Cioè, Francesco ha deciso di legarsi alla Roma e a Roma per tutta la vita. Insomma, è stata una scelta non di poco conto, poteva andare a Real Madrid, poteva andare dove voleva, lo avevano chiesto tutte le squadre, ma lui ha sempre scelto, ha scelto di stare con la Roma in tutti i momenti, quelli belli e quelli meno belli. Io ho vissuto, diciamo, anche situazioni di passaggio societario, ho vissuto, diciamo, il travaglio di quella meraviglia che è stata la generosità con la quale la famiglia Sensi ha speso se stessa per la Roma, e so Francesco il ruolo che ha avuto in quel momento così delicato. Lui ha proprio le radici in questa città e la città lo riconosce, insomma, siccome questo è un posto dove molti passano e pochi restano, Francesco invece è di quelli che è restato, insomma. Sì, tra l'altro secondo alcuni potrebbe essere stato anche il suo limite, no? C'è stato un momento in cui poteva andare al Real Madrid, poteva andare alla sua Juventus, se non è un mistero, la sua di Walter Veltroni. Poteva andare a diventare un campione globale, forse il più grande giocatore del mondo, è stato comunque secondo me uno dei più grandi giocatori del mondo, è stato sempre secondo me il più grande giocatore italiano del dopoguerra, questo è opinabile, si presta a mille considerazioni, e questo è anche uno degli appunti che si fa, no, a Totti. Ma sa, però non, per esempio, se avesse fatto così non ci sarebbe stata una giornata come oggi. Sarebbe stato uno dei tanti campioni che hanno cambiato 18 maglie, che diciamo fanno parte di quell'area, figurarsi, professionale, ma insomma i Maldini, che pure fu, diciamo, maltrattato a San Siro nel giorno del suo addio, o Del Piero, o insomma sono pochi i giocatori che hanno avuto con la loro, diciamo, situazione un rapporto come quello che ha avuto Francesco. Poi Francesco, ripeto, ha avuto non solo un rapporto con la squadra ma con la città, che è una cosa abbastanza particolare. A me è capitato di andare a cena con Francesco, insomma, bisognerebbe vedere cosa succede in una strada, in un quartiere, quando si sta con Francesco, insomma. Bisogna chiamare i vigili urbani. È una rockstar. Minimo. Ma vedi, posso chiedere a Veltroni una cosa? Prego Pier. No, ma si lega al concetto di felicità, che è un concetto fondamentale, perché poi alla fine è esattamente questo. Cioè, non credo che la felicità di un giocatore la si misuri soltanto con il numero di trofei vinti, e questo è un discorso che per Totti vale tantissimo e che vale forse anche banalmente per le nostre vite, perché veramente questa è una sintesi di tutto. Cioè, sì, indubbiamente fare carriera. Quante volte si è parlato a sproposito anche, Pier, di scelte di vita dei giocatori, degli sportivi in generale, sono poche quelli che l'hanno fatto vita, veramente. Che scelte di vita non sono in realtà mai. Questa è veramente una scelta di esistenza. Sì, è importante, secondo me, essere felici nella vita, e mi sembra che Totti lo sia stato. Poi sicuramente avrebbe potuto dire più, poi ci possono essere anche, diciamo, analisi psicanalitiche sul fatto che forse c'è stata anche un po' di pigrizia, un po' di voglia di non... Io lo considero un atto d'amore il fatto di essere passato a Roma, essenzialmente lo considero un atto d'amore. Poi probabilmente il suo analista, se mai ne avrà uno, tutti ne abbiamo uno, potrà anche decidere che c'è una componente di pigrizia, però chi se ne frega, ripeto mille volte, in un calcio che è diventato spesso di plastica, che ci siano bandiere come questa è una grande... Potrà anche capire l'analista se magari sei pentito della scelta. Volevo chiedere a Veltroni, che ha vissuto da vicino per tanti anni Totti, sotto tanti punti di vista, perché secondo lui Totti è scomodo per tanti. Io ho ritrovato Sabatini che l'ha definito il tappo della Roma, le vicende di Spalletti, insomma, sono quelle che stiamo vivendo ancora in questi minuti, Veltroni. Perché in generale le persone che hanno una personalità sono complicate. È sempre più facile, diciamo, stare con gli yes men o con persone che abbiano meno forza di quanto ha Francesco, e però si perde molto in talento, in qualità, in classe, in estro, e Francesco richiede, diciamo, Francesco ha avuto un rapporto meraviglioso con la stragrande maggioranza degli allenatori. Lui, quello con cui proprio non si è trovato, fu Carlos Bianchi, che cercò in tutti i modi di mandarlo via da Roma, tanto lui stava andando alla Sampdoria, fu Sensi a bloccare un accordo che era già stato fatto. Però lui, diciamo, con gli allenatori a Roma, io l'ho misurato proprio, insomma, direttamente, ha sempre avuto un buon rapporto. Poi naturalmente era una personalità, ma non credo che sia facile per nessun allenatore avere a che fare con Ronaldo, con Messi o con Neymar. No, insomma, anche perché hanno un peso presso l'opinione pubblica, appunto, del tifo, non so. Ma nello spogliatoio, l'autorevolezza, l'esperienza, gli anni passati, il fatto che gli altri sono andati via e lui è rimasto lì. Lui conosce, credo, di Trigoria anche il nome dei ciuffi d'erba, insomma. Ma quindi sarebbe ingombrante anche da dirigente? No, al contrario, anzi è una ricchezza. Ma Francesco, sai, Francesco messo per esempio a scegliere talenti, a trovare talenti, ma secondo me sarebbe il ruolo suo, cioè del calcio giovanile della Roma o anche nazionale. Non, mi sembra che quella sia l'ambito suo. Ma lei ce lo vedrebbe in panchina? Che a ottobre, so che ottobre l'anno scorso, so che c'è questa intervista per il Corriere dello Sport di Walter Veltroni, dove Totti diceva: ma io vedo che tutti quelli che smettono alla fine più o meno vanno a cadere lì in panchina. Non ci ho mai pensato, ma potrebbe piacere. Non è proprio così, ma comunque molti. Chi lo sa, potrebbe essere, potrebbe essere. Lui comunque, se non c'ha un rapporto con il campo, con il pallone, soffre, quindi troverà lui la strada giusta, come ha fatto restando a Roma, così troverà la strada che corrisponde alla sua identità. Abbiamo il traffico, ci fermiamo veramente meno di un minuto, quindi torniamo. Pierluigi Pardo, Walter Veltroni, ancora due minuti di chiacchiera su Totti, poi gli chiediamo anche come va a finire sabato prossimo a Cardiff. Non possiamo esimerci. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. Essere capitano di una squadra, essere il leader di una squadra, vuol dire donare tutto quello che hai te agli altri. È sempre stato messo davanti, magari annullando la qualità anche di un altro calciatore. Non ci dobbiamo accontentare se ha vinto Totti, bisogna che Totti sappia far usare tutti questi suoi successi anche alla Roma, perché lui da solo si è visto che non basta. Sbagliò in una stagione 6 rigori di fila, poi l'allenatore sei tu, ti avvicini a quei 2 o 3 che lo possono battere e gli dici: ma se ci fossi rigore posso dire, no, mister, se si avvicina a Francesco io non lo batto. Nel contesto poi di essere leader, non sono laggiù e che io ne posso sbagliare 100 e voi non dovete batterne uno. Questa cosa mi andò poco bene. Degli allenatori, l'abbiamo sentito Spalletti anche ieri, non c'è andato leggero con Totti, e questo concetto della leadership, io non so, Pier, però chiediamo prima a Veltroni, che poi abbiamo promesso di liberare, questo discorso che ha fatto ieri Spalletti: il vero leader, ad esempio, se sbaglia i rigori smette di tirarli per il bene della squadra. Totti, questo è uno dei simboli che dimostra che il leader non è mai stato, forse, fino in fondo nella sua carriera, che è un altro dei temi quando si parla di giocatori così, onorevole. Guardi, non lo so, insomma, quest'ultima fase è stata una fase un po' complicata per Francesco, per la Roma in generale. Penso che questo sia il momento in cui veramente solamente dire grazie a Francesco per quello che ha fatto. Ma io ho una domanda sul Gozzo, mi scusi se ne interrompo, ma secondo lei è stato maltrattato da Spalletti in questa stagione dal punto di vista del simbolo della bandiera? Non ci entro, perché non ho la conoscenza delle cose che nessuno di noi sa che ci sono nello spogliatoio. Io sono in questo sempre molto rispettoso dei ruoli che ci sono, e ci sono ambiti, valutazioni delle quali nessuno di noi dispone. Piera, un'ultima domanda per l'onorevole Eltroni. Voglio dire innanzitutto che il fatto, a proposito di quello che si diceva prima, oggi ci sono 70.000 persone all'Olimpico, queste 70.000 persone non vanno per il secondo posto, che pure è un obiettivo importante, che se la Roma la raggiungesse sarebbe certamente molto significativo, ma vanno per Totti, e questo spiega tutto il discorso di prima, cioè Totti è ingombrante pure quando non vuole esserlo, nel senso che è una figura talmente straordinaria e talmente amata dai tifosi della Roma, ma devo dire anche dagli avversari, a me ha colpito molto lo striscione, un mix di rispetto e di spottò dei tifosi della Lazio, il fatto che da tutto il mondo stiano arrivando in queste ore messaggi così clamorosi, questo smonta, diciamo, la tesi di chi pensa che doveva andare fuori perché se fosse andato fuori avrebbe vinto di più. Forse lui pensava di vincere il più della Roma, che è stata primatista mondiale di secondi posti in questi anni, non va dimenticato. Però rimane la grandezza di una giornata come questa. Ma oggi si può legittimamente dire che credo che anche l'onorevole Veltroni l'abbia detto prima con altre parole, ma chi se ne frega di tutti gli altri discorsi, no? Festeggiamo Francesco, lo ringraziamo per quello che ha fatto per Roma, per la Roma e per il calcio italiano. Senta, come va a finire sabato Grazie. Prossimo a Cardiff? Mi dice come va a finire, la lasciamo? Incrocio le dita. Grazie all'onorevole Eltroni che lasciamo la partita. Pier, oggi un mio amico laziale stamattina che mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito, che anche lui oggi è emozionato, ed è emozionato per una cosa poi semplice, un meccanismo molto semplice che si lega al tempo e agli abbandoni, perché al di là di tutto noi coetanei di Francesco Totti, più o meno, insomma, sono passati 25 anni della nostra vita, cioè al di là di tutto, noi ce lo ricordiamo quando è sceso in campo, quando ha cominciato, quando era una giovane promessa, ce lo ricordiamo ai mondiali del 2006, ce lo ricordiamo agli europei del 2000, cioè quando questi calciatori lasciano è veramente un lutto, nel senso che è un pezzo della vita che se ne va, e quindi... Ci sono la verità è che ci sono un paio di generazioni di appassionati sportivi di calcio, tifosi, che da questa sera si sentiranno un po' più vecchi. Assolutamente, un po' meno attuali, ma sinceramente felici, perché poi il rovescio di questo ragionamento è: ma grazie a Dio l'abbiamo visto giocare, ma grazie a Dio abbiamo visto Del Piero, io ero l'addio di Del Piero, ero l'addio di Javier Zanetti, sono oggi a vedere questa partita perché sono a Roma e non, come faccio, che faccio, vado al cinema, cioè voglio dire, è ovvio che è un evento talmente grande, talmente bello, talmente importante per tutta la comunità del calcio, indipendentemente dalle passioni e dai colori e dalle rivalità. Totti, fra l'altro, è uno, sempre tornando a quella famosa lettera la settimana scorsa della Curva Nord, è uno che spesso, insomma, ha avuto anche qualche scivolata ruvido nel rapporto con gli avversari. In quella lettera lì c'era proprio un riconoscimento di questo, che è essenza della romanità, essenza della rivalità. Quindi anche in questo, tra virgolette, è stato anche perdonato da chi era il suo rivale. È stato un grande e oggi ce lo godiamo per l'ultima volta. E poi prendo presto delle parole di Padellaro l'altro giorno a Tichita, che sia felice, felice, perché poi alla fine sarà quello che deve fare. Quello lo scopriamo da domani mattina. Per un bambino, parlo di Roma, ma in generale del mondo, sapere che per un bambino di talento che comincia a giocare a pallone, sapere che tutti lo accoglie a braccia aperte, insomma, per la Roma è un grande valore, un ambassador così, un responsabile così, uno che vede i giocatori così, perché credo che tutta la meglio gioventù, con la G alla romana, la meglio gioventù del calcio italiano, insomma, per andare a giocare nel posto dove c'è Totti che ti dà i consigli. Sì, se questo, Pier, sarà davvero il finale, ma lo scopriremo a partire da questa sera, o forse nemmeno, chi lo sa. Buona partita, Pier. Ciao ragazzi. A domani. E insomma, questo è Totti. Riusciamo a vedere se sentiamo l'audio dall'Olimpico, da Sky. Piedi sulla panchina che si sta godendo lo spettacolo dell'Olimpico. è qualcosa di straordinario. Totti che parte dalla panchina, giocano Salana, Engolana, Sharawi e Dzeko. C'è anche Sampdoria-Napoli, giornata non banale, perché in gioco c'è il secondo posto che vale l'accesso diretto alla Champions League. 4-3-3 per il Napoli, Callejon, Mertens, Insigne. C'è la sfida tra Mertens e Dzeko, ci sono mille cose che vi dobbiamo ancora raccontare, compreso quel momento lì in cui Totti metterà il piede in campo per l'ultima volta con la maglia della Roma. 800 24 00 24, torniamo dopo il GR. Il pensiero che mi lega di più a Francesco è quello della personalità quando entra in campo, che qui comando io, nel senso che datemi la palla sui piedi e vi faccio vedere io. Datemi la palla sui piedi e vi faccio vedere io. Siamo qui se no a doversi dire le stesse cose, che la Roma non ha vinto niente e quindi c'è dentro, se non ha vinto niente, anche quello che è stato il comportamento di Totti, anche se lui dei numeri importanti li ha fatti, insomma, ecco. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Tutti convocati. Parlando di uno dei più grandi talenti in assoluto del calcio europeo, penso degli ultimi 50 anni. Mai visto un giocatore andare incontro alla palla dando le spalle alla porta avversaria e con un tocco mettere in porta un compagno. E questo sta il suo più grande marchio di fabbrica, è una stima della fuori classe in maniera assoluta. Non c'è che mettersi in piedi e applaudire. Che giocatore è stato Totti? Fastidioso. No, era fastidioso a livello di giocatore, perché quando giochi contro sappiamo quanto è forte, e era fastidioso anche, cioè proprio così. Domani il Genoa va a fare l'ospite del Totti Day? Non mi interessa proprio, con tutta sincerità. Cioè, noi andiamo a fare la partita contro Roma, poi tutto il resto per non ha nessuna importanza. Allora, alla domanda se il Genoa va a fare l'ospite del Totti Day, la risposta è no. Ma come si permette? Perché al terzo minuto il Genoa sta vincendo l'Olimpico contro la Roma. E attenzione, perché è un gol storico. Ha segnato Pietro Pellegri, che è nato il 17 marzo 2001. Oggi debuttava dal primo minuto in Serie A. E insomma, è facile dire che quando è nato Totti aveva 25 anni. È più facile dire che Moise Kean, che abbiamo celebrato ieri, è del 2000 ed era il primo millennials a segnare in uno dei 5 top campionati d'Europa. Pietro Pellegri, siamo oltre all'età in cui si fa la seconda superiore. Giovanni, ma come si permette? Non gli hanno spiegato niente. No, ma al di là di questo, il risultato per ora sorprendente e pesante. Però posso dirti che quel maestro di calcio di Sarri ha dato un'immagine perfetta, perché credo anche a te, da profondo conoscitore di calcio, di Totti eccetera eccetera, la cosa che più ti impressiona è quando andava incontro alla palla, spalle alla porta, si girava, lancio lungo, uomo in porta. Esattamente la fotografia precisa. Tra l'altro, un movimento sublimato poi dai moduli, sì, di Spalletti. Sai, cioè il che lo inventò Falso 9. Falso 9. Sì. Quando ancora non si parlava di Falso 9. Nella storia ci sono dei gesti tecnici che sono quelli. Fammi salutare Max Nerozzi. Ciao, Max. Ciao, buon pomeriggio a voi. Però c'è Antonio da Salerno che ci sta aspettando. Max, lo sentiamo insieme. 800 24 00 24. Antonio. Buonasera, buonasera a voi. Vai. Volevo interrompere un po' questo coro, questo panegirico pro Totti, sì, perché onestamente non sono d'accordissimo. Sento dalle vostre reti addirittura ambasciatore dello sport italiano. Mi sembra una provocazione, perché Totti è sicuramente un grande calciatore, tecnicamente fortissimo, ha vinto pochissimo. Quel calciatore della Juventus, 17 anni, ieri ha vinto già quanto lui in Italia, lo scudetto, sì, Kane, sì, ha vinto bene, già quanto Totti. Va bene. Poi però, non si misura tutto con i trofei, però posso finire. Angelo, certo. Ambasciatore dello sport, con tutto quello che ha fatto, sputi, diciamo calci vari, mi sembra un poco troppo. Io non sono d'accordo, chiamavo proprio per dire che non sono per niente d'accordo. Va bene, un ambasciatore chi potrebbe essere allora? Del Piero. È un altro ambasciatore, altro ambasciatore. Mica ce n'è solo uno, Maldini, Zanetti, e poi ce ne sono tanti altri. Io non so come la pensa Max Nerozzi, che ha vissuto da vicino anche la parabola finale di Del Piero. Max, ma l'addio di Del Piero fu altrettanto forse brusco, insomma, nelle modalità, però era già una linea tracciata, e soprattutto a differenza della Roma, secondo me la Juve ebbe il grande merito di annunciarlo. Molto più Urbi, questa vicenda è stata paradossale, e non lasciò nulla nelle mani del tecnico che poteva pensare ad altro, che lo fece il presidente davanti all'assemblea dei soci, quindi da lì non si scappava. E devo dirti anche che alla fine, pur con le lacrime di Alex, perché insomma una storia lunga, 20 anni, non è facile da troncare, lui, ricordiamo, che si ritrova con scudetto vinto dentro un nuovo stadio, facendo un giro di campo oggettivamente da penne d'oca mentre si stava giocando, cioè tutti guardavano lui, nessuno guardava Juve Atalanta. Sì, che poi è quello che è successo. Io adesso lo racconto, l'ha raccontato in parte prima Dario Ricci, durante il GR Totti ha fatto il giro di campo, il primo giro di campo, squadre che si stavano schierando prima dell'inizio della partita. Io immagino il fegato di Spalletti che pensa giustamente al secondo posto. È una partita che evidentemente non è una passeggiata, e lo dimostra il risultato 1-0 per il Genoa quando siamo al 7° minuto. Anche questo segnala il peso di un giocatore. Vi faccio sentire Allegri, perché mancano 6 giorni a Cardiff. La stagione in questo momento è bella, e ora abbiamo l'ultima partita di Cardiff, ma ci penseremo da lunedì. Una partita che c'è da preparare ben poco, c'è solo da giocarla e cercare di vincere. A livello fisico la squadra sta bene, anche oggi ha finito il secondo tempo in crescendo, e questo me l'aspettavo. Poi per quanto riguarda la preparazione di Cardiff, non è che ce la fa tantissime cose. Io credo che nelle finali, nelle partite secche, i dettagli fanno la differenza, e noi bisognerà essere molto bravi in quello. Tra le cose da fare per preparare Cardiff, credo ci fosse, Max, anche giocare ieri con pochissimo turnover, soprattutto a centrocampo e davanti. È stato un rischio calcolato, è stata una necessità. Perché l'ha fatto? Perché è stata una necessità, nel senso che Khedira veniva da un infortunio e non poteva presentarsi alla finale di Champions, senza una partita. Esatto, bravo. C'è Udovera, e poi sai, davanti comunque, cioè Higuain voleva giocare, e questo fa bene. E si diceva dentro la Juve, magari era pericoloso farsi 2 settimane senza comunque il profumo di agonistico, insomma, per quanto può essere stata una mezza amichevole ieri a Bologna. Però soprattutto il centrocampo era una verifica. Per esempio Marchisio ha finito in panchina con il ghiaccio sul ginocchio. Era un collaudo, era un crash test, certo, ieri. Che possiamo dire superato. Intanto sta succedendo di tutto all'Olimpico. Il Genoa ha avuto una clamorosa occasione a porta vuota per il raddoppio. Sai che siamo qui a raccontare un pomeriggio diverso da quello che immaginavamo. Noi dobbiamo immaginarci invece su Cardiff una Juve che è quella disegnata in questa parte finale della stagione, o Allegri sta studiando qualcosa di diverso, Max? Bella domanda, secondo me è questo il grande quesito. Tutti, penso anche voi, si mette la mano sul fuoco sull'assetto di Cardiff della Juve, cioè modello Europa, quello che abbiamo visto a Monaco, con Beniaves alto, Barzagli terzino. Sarebbe un pazzo a cambiare le cose, secondo me. Hai ragione, forse non così, però io ricordo soltanto che anche in questi 3 anni fantastici di Juve, nelle partite gol della Roma, Max, scusami, Zeko ha segnato. Edin Zeko, 10° minuto, di ginocchio dopo un palo, un tap-in, esatto, di ginocchio dopo un palo colpito. Prego, Max. Conta anche perché sia di bomber, ovviamente. Sì, sì. No, qualche sorpresa sempre fatta, non so, mi viene in mente Juve Real Madrid, semifinale di andata di Coppa di Champions League, Sturaro esterno sinistro, lo stesso a Monte Carlo, Daniele Salto fu una sorpresa. Io mi chiedo cosa possa escogitare, dopodiché ha ragione Carlo. No, gli interpreti sarebbe... quelli, anche perché cambiando qualcosa trasmetteresti un pizzico di tremore alla squadra. Si va così con gli uomini che ti hanno portato fin lì, secondo me, e questo vale in tutti gli sport, in tutte le finali, in tutte le grandi partite. Sì, hai ragione. Dopodiché mi ricordo che i primi 10 minuti a Monte Carlo, con Barzagli schierato dietro, tutto lo stadio e 3/4 di tribuna stampa dicevano: ah, vedi Allegri, ha messo Barzagli contro Neymar, 4 centrali dietro, perché fa una partita difensiva. E invece aveva ragione lui. Dopodiché, per cui noi raccontiamo lo sport, lui invece allena. e prende quel che prende, quindi ci sta. Sì, io credo che una difficoltà sarà anche capire per Allegri che Real Madrid avrà davanti, perché un conto è averlo con Bale insieme a Cristiano Ronaldo e Benzema, un conto è averlo con Isco, come a Madrid come sperano, e un conto è averlo con Casemiro o senza Casemiro. E quindi sarà anche da leggere quelle che saranno le scelte di Zidane. Per il resto credo sia tutto abbastanza chiaro. Io la butto lì. Barzagli ieri è partito titolare. Non credo fosse Max uno di quelli che aveva bisogno di fare il tagliando. Spesso queste scelte magari indicano che non è tra gli 11 prescelti per la partita, quella importante che si gioca la settimana dopo. Sai che invece stavolta io sto con quel che diceva Carlo, nel senso che è una partita di calcio, è una finale di Champions League, ma è anche una storia meravigliosa di un ciclo che è passato da Berlino e che di una squadra che ha anche molte forze morali, oltre che ovviamente impatto tecnico, e penso che Barzagli questa finale si meriti di giocare. So che nello sport non c'è riconoscenza, ma Barzagli si è conquistato sul campo oggettivamente con Monaco, ha giocato due grandi partite, è in grande spolvero, io lo vedo in campo dietro. Se cercate dei messaggi, tra l'altro, sulla formazione di sabato prossimo, Allegri ne ha dato uno ieri al Dallara, post partita ha detto il Real Madrid non è solo Cristiano Ronaldo, è anche Marcelo. Questo secondo me vorrà dire che Cuadrado non gioca, dopodiché è una mia interpretazione e quindi gioca Dani Alves. Grazie Max, ci vediamo e sentiamo. Ciao, da Max. Cardiff. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Allora, intanto vi raccontiamo invece una cosa brutta del pomeriggio dell'Olimpico. Si è fatto male Emerson e temo anche in maniera seria, perché abbiamo visto il ginocchio sinistro girarsi in maniera fortemente innaturale. È successo davvero di tutto in questi primi 13 minuti. Gol di Anca di Dzeko dopo aver preso un palo. Gol dell'1-1, Roma-Genoa 1-1, 0-0 tra Sampdoria e Napoli. In questo momento la classifica dice che il Napoli sarebbe terzo a quota. Napoli sarebbe terza a quota 84, la Roma seconda a quota 85, e che Dzeko 29 gol sarebbe il capocannoniere, 2 in più di Mertens che è a quota 27. Traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Lui ha ancora la voglia di giocare, lui è sempre un giocatore che può fare la differenza in Serie A e in Serie B. Sermetius ha giocato fino a 50. Questo era Zeman su Totti, aggiornamento, siamo intorno al 16° minuto, 0-0 Marassi tra Sampdoria e Napoli, 1-1 all'Olimpico tra Roma e Genoa, i gol di Pellegri e Dzeko, e poi vi racconteremo dell'infortunio di Emerson Palmieri, rimasto a terra dolorante al ginocchio sinistro. Io ho avuto una pessima sensazione, ma adesso aspettiamo di avere qualche certezza in più. Saluto Dino Zoff, che ringrazio davvero per aver accettato. Buongiorno, il nostro Dino. Invito. Ciao, ciao. Senti Dino, posso partire io chiedendoti una cosa? Sì, hai già chiamato il nostro comune amico Leo Turrini? Se l'hai sentito, che cosa ti ha detto? E poi... No, non l'ho sentito. Come mai? Cosa ha detto? No, non lo so, volevo saperlo. Lo stiamo da te. Cercando anche noi. Poi lo cerchiamo anche noi, ma io so perfettamente che tu sei il secondo più esperto di Formula 1 in Italia dopo Turrini. Non lo so se sono dopo Turrini. Però tra i primi tre sul podio. ma perché mi ritenevo magari un po' più esperto. No, cioè, allora fammi un commento sulla Ferrari di Monte Carlo, su questa gara, e anche dimmi se sei del partito di Turrini pro Raikkonen, perché lui ha fondato un partito di cui io sono segretario. Guarda. Però siamo contro tutto il mondo, perché non ce n'è uno che ci dà ragione. Guarda, io sono perfetto, ma non adesso, da moltissimo, da sì. quando ho vinto a Monza con la Toro Rosso sul Vagnato. Sì. E l'altro anno eravamo rimasti io e Bernabei, che è un vecchio pilota anche di Formula 1 di Roma, E quindi adesso che tutti ne parlano alla grande mi fa ridere, insomma. No, ma, no, ma io dicevo, per allora, innanzitutto, è l'anno giusto per la Ferrari? Sembra di sì. L'altro giorno Leo mi diceva a Monte Carlo, Vince Schumacher dopo 16 anni in cui si era lasciato, i numeri li sai, è inutile che li dica a te che sei il massimo esperto italiano di Formula 1. Però confermeresti Raikkonen alla guida della Ferrari l'anno prossimo? Questo è il punto, questo è il manifesto del partito. Ma no, il manifesto del partito certamente, ecco, però bisogna valutare bene nella squadra, insomma, fino a un certo punto possono essere alla pari, poi uno deve diventare secondo. No, ma che sia secondo è indiscutibile, lo confermeresti l'anno prossimo? Ah, quello sì. Quello allora sei anche tu del partito, del nostro partito. La tessera numero 3. Quella di, una di Turrini, la seconda è la mia e la terza è la tua. Dino, ti lascio Giovanni. Intanto è uscito Emerson che si è fatto male purtroppo ed è entrato Mario Rui 1-1 sempre, 19° minuto. No, io volevo capire da Dino Zoff invece come si sentirebbe nei panni di Spalletti, che è allenatore, come è stato grande allenatore. Dino Zoff oggi è stato fischiato, ma era nella logica delle cose, sono sorte anomalie, quindi insomma era scontato anche questo, se vogliamo. Ecco, insomma, è mancata un po' di chiarezza da parte di molti e di conseguenza si arriva a questi presupposti. Ma Spalletti è stato vittima o carnefice di questi ultimi 2 anni, anno e mezzo? Ma io non so, vittima era nella logica, se poi ha fatto anche il carnefice non lo so. Noi abbiamo convocato Dino Zoff perché è stato, lo sai Carlo, che ha fatto debuttare Totti, Francesco nazionale. Totti in nazionale, Udine, Stadio Friuli, 10 ottobre 1998, a casa sua, casa Italia-Svizzera 2-0, al 70° al posto di un certo Del Piero. Zoff tra l'altro se ne intende anche di carriere longeve. Secondo te ha tirato troppo per la lunga Totti? Ma no, perché è una classe immensa, che insomma fisicamente anche dotato, eccetera. Quindi bastava un po' di chiarezza, insomma, da ambo le parti che si risolveva, ma che Totti sia un fenomeno, anche se qualche cosa gli è mancato in campo internazionale, ecco, perché la nazionale ha fatto un grande europeo con me, poi dopo ha vinto un mondiale. Beh, insomma, però non è stato protagonista assoluto. Ecco, è questo, sai, un giocatore. Conta questo. Il mondiale del 2000 è una ferita che rimane aperta. Cioè, era forse il momento in cui quella generazione poteva già cominciare a raccogliere. Beh, bastava già raccogliendo. Sì, è difficile trovare una pecca tranne gli ultimi 30 secondi. Moglie for cucchiaio. Di quel mondiale. For cucchiaio. E maledetto chi ha inventato il golden goal proprio in quel periodo lì. No, la partita l'abbiamo persa sull'1-1. Sì, certo, però rimane storica anche perché per quel moglie for cucchiaio, no, Dino, che fu qualcosa. Ma sai, io sono vecchio, quel cucchiaio lì l'ho visto agli europei del 76 fatto Panenka. Da Panenka. Sono abbastanza vecchio anch'io. Quindi si inventa poco nel calcio. Sì, però moglie for cucchiaio, vado lì con l'Olanda e glielo fece. Io sono un totiano convinto, rimango dell'idea, guarda, Dino, contestato. Guarda che più totiano di me non c'è stato nessuno. Lo so. Io lo spronavo a diventare quello, ancora più di quello che è diventato, perché non mi bastava che giocasse meglio di molti nell'ambito della Roma, volevo che diventasse veramente a livello internazionale un grandissimo, perché in Italia lo era già. Ma io, guarda, poi è un discorso accademico da bar, per il quale mi prendo insulti per Nacchi, però io resto convinto del fatto che sia stato il più grande giocatore italiano del dopoguerra, poi una questione mia personale. Ma sai, dopoguerra, io dico, il calcio internazionale conta nel considerare le prestazioni, perché se tu vai a vedere i Cruyff, No, dico italiano. Sì, ho capito, però per dirti la cosa hanno determinato loro nell'ambito della propria nazione, ecco, questo ti volevo dire. Sì, so, certo, che sono stranieri. Allora, siamo al 22esimo minuto, 1-1 Roma-Genoa. Il Shaarawy è andato vicinissimo al gol del 2-1. Intanto ci stanno facendo rivedere mille volte il controllo di Dzeko sull'azione del pareggio. Sì, va bene, va bene. Io spero che non ne parleremo da qui a fine agosto, quando comincia il prossimo campionato. C'è un sospetto tocco di braccio, cultori della Moviola, tra i quali ci sono anch'io, ma ne parliamo da domani. 0-0 invece tra Sampdoria e Napoli. Voglio approfittare dell'ultimo minuto di Dino Zoff per sapere cosa ne pensa del referendum che si è aperto, su quale sia la Juve migliore di tutti i tempi. C'è la sua, altro discorso da bar, c'è quella di Lippi, c'è questa che va a Cardiff sabato, altro discorso accademico. Ma sai, io ne ho fatte tre di Juventus, da quella spettacolare, straordinaria degli Haller, Causio, Anastasia, quella robusta della Coppa UEFA, l'unica squadra italiana, tutta italiana, a vincere una Coppa nel nostro calcio, all'ultima con Boniek e Platini. Quindi sono grandissime Juventus, certo questa fa delle cose stratosferiche, sei campionati vinti è una cosa fuori dal comune, quindi se andiamo a vedere i numeri questa non ha niente da imparare da nessuno, ecco, anche se la concorrenza. Sì, viene da dire altri tempi, viene da dire altri tempi in cui l'economia gioca la sua parte, Dino. Ma non sai, l'economia altri tempi, probabilmente è anche un altro calcio, perché esatto, vediamo. Sì. Ma no, ma un altro calcio, anche strano, perché il calcio è sempre lo stesso, perché le misure del campo sono più corte adesso con i fuorigioco. I gol che sono successi, ma non è possibile, tutte le squadre 4, 5, 6, 7 gol, c'è qualcosa di anomala, sono 20 capocannonieri con oltre 15-16 sì, gol, certo. Insomma, c'è qualcosa veramente, c'è qualcosa che non torna. Sono 12 giocatori oltre 15 gol, questo è l'aggiornamento. Sì, sì, ma è anche un campionato stranissimo. Dai, dobbiamo andare in pubblicità. Io ringrazio davvero Dino Zoff. Ciao, Dino, è stato un piacere. Grazie assoluto. Voi, ciao, padre, salutami Torrini quando lo senti dopo più tardi. Esatto, lo sentirò, va bene. Digli che è convocato domani. Domani lo sento io. Alle 15. Non ti preoccupare, domani alle 15 lo sento io. Grazie Dino Zoff. Tra l'altro, anzi, ha riso, tanto Dino Zoff. Sì, abbiamo riso, sì, quindi sì, ce l'hanno scritto anche in tanti via sms e via whatsapp. 25esimo, 1-1 Roma-Genoa, 0-0 Sampdoria-Napoli, quindi in questo momento Roma che resta seconda 85 punti, Napoli terzo 84, classifica marcatori Dzeko 29, Mertens 27. Noi ci fermiamo, saluto Carlo che ritrovate. Ciao, domani ragazzi, dopo il giro delle 14, dopo le 14. E poi però abbiamo ancora tante cose di cui parlare, torniamo sul Giro d'Italia e parliamo anche di che cosa accadrà questa sera, la volata scudetto a due tra Empoli e Crotone, lo facciamo con un tecnico che di zone basse della classifica se ne intende, oltre a continuare a raccontarvi il giorno di Totti e la volata tra Roma e Napoli. Torniamo bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. State ascoltando un programma offerto da... Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Tutti convocati. Per quanto riguarda il rinnovo, c'è la volontà da entrambe le parti di continuare. Dalla società ho avuto ampie garanzie che la rosa sarà qualitativa, sarà sicuramente competitiva sui tre fronti. Crede che i tifosi si ricorderanno di lei? Credo sì. Il rapporto è stato sempre bello, cioè, ho detto sempre che i tifosi si possono esprimere, cioè, come si sentono, si hanno espresso di diversi modi, per questo li dobbiamo rispettare. Le spalle Spalletti ha dimostrato da quando allena, comunque sempre ha iniziato benissimo vincendo campionati di C, di B, facendo bene, e ultimamente sta facendo benissimo ovunque e lo sta dimostrando anche a Roma. È un allenatore importante, uno dei migliori sicuramente sulla piazza. Tra domani e lunedì prenderemo insieme una decisione. Adesso stare a stabilire le percentuali o i soliti discorsi, troverete un muro, nel senso che è inutile parlare di un qualcosa che non c'è niente di definito su tutte quelle che sono le scelte generali. Diciamo che in base anche a quello che ci diremo faremo determinate scelte, che va al di là poi delle possibilità che io ho in questo momento. Vabbè, a parte che io capisco che se chiama la Roma tutti allenatori ci vanno, io, però proprio conoscendo l'ambiente, oggi per me l'ambiente non è per lui. Dunque, Inzaghi, Sosa, Vecchi, Di Francesco e Zeman su Di Francesco, che potrebbe essere il prossimo allenatore della Roma, si vedrà. Intanto 31esimo minuto 0-0 Marassi tra Sampdoria e Napoli, con il Napoli che sta spingendo per cercare di trovare il gol che in questo momento gli consentirebbe di scavalcare la Roma al secondo posto. Roma che a sua volta sta cercando di spingere, 1-1 contro il Genoa che si era portata in vantaggio con Pellegri al terzo minuto, poi il pareggio di Edin Dzeko al decimo. Roma che ci prova, ma in questo momento è inchiodata sull'1-1. 800-24-00-24, Maurizio. Maurizio? Sì. Eccoci, dai. C'è qualche problema di audio. Complimenti tanto per la trasmissione. Vai, grazie. No, senti, facciamo così, proviamo a richiamare Maurizio e a rimetterlo in onda, che non si sente. Poi parliamo anche della volata salvezza. Sì. I have won my first European trophy and you speak about Totti. Sì. What dick are you saying? Oh, cazzo, carissimo, no. Cazzo, dici. Stai parlando della vittoria del Manchester, sì, Zlatan, sì. I am the king of United. Sì, però non è che proprio l'hai vinta la prima Coppa Europea. United Kingdom. Eri infortunato, hai saltato la finale, hai saltato la semifinale. What dick is gone Totti? Dove cazzo è finito? Non vedo lui che gioca, ok. Va bene. Ma abbi pazienza. Tu adesso parli entra, di Totti e non parli di me che ho vinto tutto con Barcellona. Ma dire, ma neanche hai giocato la finale, ma non hai vinto tutto, non hai vinto la Champions. I am Zlatan, the king of England, ok? I'm number one of the world. Io sono genio, va bene? Tu parli di qualcuno che è protagonista di chi l'ha visto, ok? Adesso Totti entrerà, vedrai, nel secondo tempo. Poi, comunque, Zlatan, tu non hai vinto l'Europa League in campo, perché ormai è Mourinho quello speciale. Dici. È Mourinho quello Lui speciale. Lui è the special two, perché the special no. one I am, the best of the world. The winner, chi cazzo è Totti? Vuol dire che è Totti? Cazzo, guarda Totti anche è il regista. Totti è il protagonista. No, mi dissocio. Chi è quello che guarda? Gianmarco Ferronato, Gianmarco nostro regista. Ferronato, aspetta, cazzo, stai qui, guardi, Zlata. Maurizio da Roma, Maurizio. Buonasera. Oh, dai, che ci sentiamo, forza. Allora, intanto, complimenti per la missione. Sì. Volevo dire questo, intanto sono comunque uno sportivo, anche se tifo Juve, però voglio dire questa cosa qui. Totti, da juventino, ma soprattutto da sportivo, voglio dire che è stato uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi, insieme, secondo me, passatemi questa cosa, con Roberto Baggio. Sì. Un altro che non si misura a trofei, perché Baggio ha vinto meno probabilmente di quanto potesse vincere per il suo talento. Certo, sicuramente, però onore a Totti, perché nonostante lui avesse avuto tantissime richieste anche all'estero, come in Italia, è voluto rimanere a Roma, nonostante ciò, sapendo di poter vincere poco, però è stato attaccato a questa maglia. E io posso dire una cosa, perché ho giocato a pallone, e non so oggi Spalletti con un pubblico del genere all'Olimpico se la può passare bene, che non ha fatto entrare oggi un giocatore che secondo me il più grande, no, secondo me il più grande, lo state dicendo voi in questa trasmissione, sì. Non facendolo iniziare dal primo tempo, perché è un giocatore che si allena tutto l'anno. Io l'ho visto perché ho avuto la possibilità di portare mio figlio a Trigoria, che gioca a pallone e ha giocato contro suo figlio, ma questa è un'altra cosa. L'ho visto che stava in forma, e non penso un giocatore che lo porti tutti i giorni tutte le domeniche in panchina, non sta in forma. Quindi... Sì, io non so Maurizio, nel senso che poi la scelta di farlo giocare titolare o meno, credo si entri in un ambito che è davvero di assoluta pertinenza dell'allenatore. Spalletti prende i fischi perché oggi prende i fischi dell'Olimpico, credo non per questa scelta ma per tutto quello che è corso nell'ultimo anno e mezzo. Spalletti ha sbagliato altre volte, ha sbagliato a non dargli 5 minuti per la passerella finale a San Siro ad esempio, stadio che ne ha celebrato tante gesta. Poi Roma-Genoa è una partita importante, lo dimostra anche questo 1-1 dopo 35 minuti. Fatemi salutare Beppe Iachini. Ciao Beppe, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Difficile il ruolo di Spalletti oggi. Sai, quando ti trovi a dover gestire una chiusura, tra virgolette, insomma, di un grande campione, di una carriera di un grande campione, non è mai facile, anche perché poi qualsiasi cosa fai, al di là del fatto che a meno che non giochi sempre, magari può essere letta in qualsiasi maniera, quindi non è facile. Ora lui penso che ovviamente conosce benissimo quella che sono per la squadra, che sono le caratteristiche, che la partita, l'impegno di dover arrivare al secondo posto per la Champions. È chiaro che tutte queste cose hanno fatto sì che scegliesse di non farlo partire titolare, si complicasse maledettamente tutto, ma adesso è ancora più complicato perché 20 secondi fa il Napoli si è portato in vantaggio a Marassi con la Sampdoria, gol di Dries Mertens, a proposito, 28esimo gol, Dzeko ne ha in questo momento 29, classifica real time a 10 minuti dalla fine del primo tempo, Napoli 86 punti, Roma 85, quindi Napoli che in questo momento è secondo in classifica. Però io con Beppe Iachini voglio anche parlare di che cosa succede questa sera, quindi del duello a distanza tra Empoli e Crotone, tra Martuscello e Nicola, che secondo me è uno dei tecnici rivelazione di questa stagione. Si va a Palermo a cercare di fare quello che tutti si spera c'è da soffrire fino alla fine, e noi siamo pronti per soffrire fino alla fine. A me piace pensare invece che il Crotone sia il risultato di un durissimo lavoro. Credo che questo sia stato il più bel messaggio che il Crotone abbia dato alla gente. Partiti da inadeguati, partiti da quasi stolti o sciocchi, e riuscire ad arrivare all'ultima settimana a giocarsi la salvezza credo che sia una gratificazione enorme. Beppe Iachini, cosa conterà di più questa sera in questo duello a distanza tra Empoli e Crotone? Sono due partite sicuramente entrambe difficili, perché vincere fuori casa per l'Empoli, vincere non è mai facile. Il Crotone ha la Lazio in casa, che magari può arrivare al quarto posto e può superare l'Atalanta, quindi sicuramente non sono per nessuna delle due squadre partite facili, ma è chiaro che se arrivate alla fine, chi sarà più bravo in questa gara nei 90 minuti nella gestione tattica, mentale, fisica, ecco, ovviamente resterà in Serie A. Empoli che è fermo da mesi, a parte la fiammata della doppia vittoria fuori casa contro Fiorentina e Milan, io credo sia difficile per una squadra che fa così pochi punti praticamente dall'inizio del girone di ritorno, è difficile tutto, anche una trasferta a Palermo. Ma sicuramente qualcosa c'è che non è andato per il verso giusto, perché fino a qualche mese fa, insomma, i punti di stacco erano 8-9, insomma, sono stati, quindi la salvezza sembrava una cosa, non dico certa, ma di più facile raggiungimento. Non è stato così e si è arrivato alla fine del campionato. Ora è chiaro, bisogna vedere nella testa della squadra, dei giocatori, perché una squadra va sulle ali dell'entusiasmo, che è il Crotone, che ha fatto una grande rincorsa, mentre l'Empoli ovviamente negli ultimi periodi ha magari il fatto di sentire la pressione da dietro che arrivava il Crotone, è chiaro che può avere può essere un fattore determinante, quindi bisognerà vedere cosa a livello psicologico anche come le due squadre staranno e come affronteranno la partita. Intanto c'è Terra Mertens, noi speriamo non sia niente di grave, ha avuto un contrasto con Torreira della Sampdoria in mezzo al campo e la gamba destra, compreso il ginocchio, è rimasto incastrata tra le gambe di Torreira che cadeva. Mertens parecchio dolorante al ginocchio destro, abbiamo già visto l'infortunio al ginocchio sinistro di Emerson in Roma-Genoa, costretto ad uscire al suo posto Mario Rui. Approfitto di Beppe Iachini. Io dicevo prima, allenatore del Crotone, Nicola, secondo me è una delle rivelazioni di questa stagione, perché tenere sulla corda una squadra che tutti danno per retrocessa a gennaio è quasi un miracolo. Sì, sicuramente sì, da un lato non avevano nulla da perdere perché avevano solo da loro parte il fattore sorpresa, il fattore di dover giocarsi le partite con quella, tra virgolette, no? Pensieratezza sotto certi aspetti di dover di essere una squadra, come hai detto tu, che è stata rivelazione. Però quest'anno sotto sia stato un campionato anomalo, insomma troppo bassa la zona salvezza. Sicuramente non, ecco, è stato un campionato insomma al di sotto delle aspettative rispetto agli altri anni, dove magari sono state nel passato squadre che a 40 punti, 39 punti, 41 punti hanno fatto fatica a salvarsi. Quindi quest'anno ci sono state le ultime quattro squadre che sono andate veramente tanto piano. Ma secondo te è un'anomalia o è il tratto di questo periodo storico? Dobbiamo rassegnarci, magari sarà così anche l'anno prossimo. No, penso che sia stata una cosa abbastanza casuale. Lo scorso anno sono voluti 40 punti per salvarsi, no? Quindi in maniera tra virgolette tranquilla. E quindi l'anno precedente idem, quest'anno è stato un campionato anomalo, ho detto troppo pochi punti delle ultime quattro squadre rispetto alla mia ultime stagioni, e quindi questo lascia pensare che sia, possa essere una cosa casuale di questa stagione. Oggi alla fine potrebbero servirne 35 per restare in Serie A, che è anche una quota dignitosa visto qual era l'andamento a metà della stagione. Grazie Beppe Iachini. Prego, a voi buon lavoro. Buon lavoro. Grazie Beppe Iachini. 5 minuti alla fine dei primi tempi, 1-1 Roma-Genoa, 1-0 per il Napoli a Marassi, partita ripartita, quindi Mertens dovrebbe essere ancora del mazzo, ma adesso verifichiamo. 800-24-0024, c'è Antonio da Milano, ripartiamo da lui dopo il traffico. Tutti convocati. Intanto il raddoppio del Napoli a Marassi, gol meraviglioso di Lorenzo Insigne dall'incrocio dell'area di rigore, un destro morbidissimo, pallonetto, palla che ha scavalcato il portiere della Sampdoria, si è infilato sotto la traversa. 2-0 per il Napoli a Marassi dopo il gol di Mertens, ancora 1-1 tra Roma e Genoa quando siamo al 44esimo del primo tempo. Roma che adesso gioca stabilmente nella metà campo del Genoa e si espone anche a qualche contropiede. Antonio da Milano, Antonio. Salve, buonasera a tutti. Eccoci. In verità chiamavo, sono un tifoso juventino e chiamavo per fare un'esortazione a voi giornalisti o per invitarvi se non altro a fare una riflessione. In questi giorni, ma in questi anni, il calcio italiano si è sempre, diciamo, distinto, vuoi con Ranieri, vuoi con Conte nell'ultimo periodo a livello internazionale, e anche la Juve di questi ultimi tempi in Champions League ha avuto modo di affermarsi in modo anche netto sulle squadre spagnole in particolare. E nel recente passato si parlava sempre di triplette, di falsi nueve, quindi con un vocabolario tipicamente spagnolo. E quindi l'esortazione che faccio è, magari un domani, auspicabilmente, anche perché sono un tifoso juventino, quanto tempo ci vorrà per iniziare a parlare con un vocabolario italiano anche all'estero, e più propriamente non di triplete ma di tripletta. Tripletta. Ecco, questa era la tripletta, un vocabolario italiano. Gli inglesi all'estero dicono treble, poi ognuno dice come vuole. C'è il falso nueve, si può dire come centravanti di manovra, Antonio, cioè, ci sono i termini italiani, però è anche vero che ad esempio quello che noi chiamiamo falso nueve poi è stato celebrato e glorificato in Spagna con le scelte del Barcellona, e quindi è anche giusto che di quello si parli. Abbiamo adesso la chiusura sul Giro d'Italia in questa domenica meravigliosa che ci ha raccontato anche del successo della Ferrari. Con desidero ringraziare molto, caro Presidente, abbiamo Presidente Capuano, della Repubblica, per l'ennesimo invito così io non cortese sono presidente, che mi ha rivolto. Desidero si è invitato da solo, a dire la verità. Sì. Desidero esprimere da Presidente della Repubblica orgoglio, vivo gradimento, univocità, condivisione e felicitazioni per la doppietta italiana. Sì, vince la gloriosa rossa a Monte di Maranello. Hai visto che bello. E sventola alta la bandiera italiana sul gradino più alto del podio davanti al Duomo di Milano. No, non è vero. Con Saronni che vince il Giro d'Italia. Moser, chiedo scusa. No. Ha vinto un olandese, Tom Dumoulin. Ha vinto un olandese, Tom Dumoulin. Però siamo contenti, è stata comunque una noi grande festa. Noi però diciamo sempre, viva l'Italia e viva i grandi campioni che questo paese ci ha regalato e continua a regalarci con grande condivisione e con mia orgogliosa soddisfazione. È bellissimo, però diciamo... Viva l'Italia. Sì. E sono felice di poterlo dire qua a Reti Unificate, a Radio 24... Radio 24 sì, è Radio 24, 24. Viva l'Italia. Ovviamente. No, però per non far confusione non ha vinto nessun italiano il Giro. Anzi, adesso lo raccontiamo con il nostro Pier Augusto Stagi questo finale del Giro. Dai, vai. Primo olandese a vincere il Giro d'Italia. Incredible. It's crazy. I don't know what to say. This is the dream scenario. When I crossed the line, they said to me, you won it. But then I stood here and it was only 3 seconds. I was freaking out, and it's incredible. This is crazy, really. I could not have imagined this, never. Questo è Dumoulin, che ha detto incredibile, è una cosa folle, folle e meritata per Augusto Stagi, questo successo che è maturato poi nella crono, ma lungo 3 settimane che ci hanno regalato emozioni al Giro. Guarda, onore al merito, Tom Dumoulin è il degno vincitore di questo Giro 100. Certo, la speranza, il cuore, come abbiamo raccontato più e più volte, erano tutte per Vincenzo Nibali, che ha lottato fino all'ultimo, ci ha proprio fatto sperare fino all'ultimo chilometro, anche se sapevamo perfettamente già da ieri sera, al termine della corsa di Asiago, che... Dumoulin non era, che era il grande favorito, era troppo vicino e quindi avrebbe avuto quel calcio di gloria a porta vuota che lui non ha assolutamente fallito. Secondo te devono rimpiangere qualcosa Nibali e Quintana? Guarda, allora difficile dopo 21 tutte giorni. Due, allora io dico, sembra di essere antisportivi, ma lo dico invece assolutamente con uno che credo di conoscere lo sport, visto l'agonismo deve essere sempre totale e profondo. Nella tappa di Bormio, proprio quella bellissima vittoria di Vincenzo Nibali, è l'unica vittoria italiana in questo Giro d'Italia, ottenuta appunto non casualmente da Vincenzo, e lì quel giorno ci ricordiamo che Dumoulin sta male, è una giornata storta, soffre di dissenteria, diciamo come stanno le cose, si deve fermare, perde un minutino e noi tutti pensiamo per Dumoulin è la fine, in realtà lì dimostra tutti gli effetti che non è la fine, ma anzi lì vince il Giro secondo me. E lo vince anche perché i suoi avversari sottovalutano quel momento lì, in realtà Nibali e Quintana sapevano perfettamente che avevano già del tempo che dovevano recuperare, in più c'era questo bonus della crono finale in favore di Dumoulin. Lì hanno perso troppo tempo, sono stati lì troppo buoni, devo dire. Invece ci doveva essere cattiveria, invece antisportiva, no? Assolutamente no, perché lo sport ti impone di dare sempre e costantemente il massimo, anche nei momenti in cui il tuo avversario ha un momento storto. D'altra hanno parte, sottovalutato l'olandese. Hanno forse sottovalutato l'olandese. In realtà si erano concentrati sul duello tra di loro. Esatto. Nairo Quintana è stato un Quintana che solo adesso ha detto non sono stato benissimo, effettivamente non ha mai dato l'impressione di essere pimpante, eravamo un po' tutti convinti nella terza settimana Quintana spiccherà il volo, invece non l'ha mai spiccato. Chi nella terza settimana è venuto fuori bene, molto bene, e non ha mai dato dimostrazione di essere inferiore agli altri, è stato Vincenzo Nibali, che però ha perso il suo Giro sostanzialmente come lui stesso ha ammesso poco fa, l'ha perso nella tappa del Blockhaus e a Europa. Lì ha perso secondi preziosi e in pratica il Giro. Se pensi che il secondo posto è a 9 secondi, il primo non è lontanissimo. E quindi sono 40 secondi che in realtà potevano essere assolutamente colmati. È stato quindi un Giro che si è deciso quanto mai sui dettagli, ma mai come questa volta. Pier Augusto, ti saluto, ovviamente domani poi ci sarà tempo per approfondire bene tutti i temi di questo Giro. Grazie Pier Augusto Stagi. Grazie a voi. Sentiamo ancora i nostri punti informativi. Ovvio, finale di primo tempo, Roma-Genoa 1-1, Pellegri dopo 3 minuti, Dzeko il pareggio al decimo, 0-2 a Marassi, tra Sampdoria e Napoli, gol di Mertens e Insigne. che significa che in questo momento alle spalle della Juventus a quota 91 punti c'è il Napoli con 86, davanti alla Roma con 85, e c'è ancora un tempo da giocare. E significa anche che nella classifica marcatori c'è Dzeko in testa con 29 gol, seguito da Mertens con 28, poi Belotti che questa sera giocherà in Torino-Sassuolo con 25, e poi tanti altri, ma questa è una domenica che regala ancora delle emozioni, compresa quella di Totti, 45 minuti alla fine della carriera di Totti da calciatore della Roma. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi, Gianmarco Ferronato, che si sono alternati in regia. Noi ci sentiamo domenica alle 17. Me fate di una cosa bella. E di una cosa bella. Da domani Totti giocherà per la Samp. Ma non è Doria. Ma non diamo e non ci ferma nessuno. Non diamo informazioni che non sono. A domani dopo il GR delle 14. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!